Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. 1, 2, 3, 4. Insomma, i batteristi spesso iniziano i pezzi così, soprattutto i batteristi che spingono, i batteristi rock. Bene, oggi parliamo proprio di un batterista. La batteria è lo scheletro di un corpo umano, no? Abbiamo già parlato di gente come John Bonham, di Kate Moon, la lista di batteristi che hanno cambiato la storia anche dei loro compagni d'avventura è molto lunga. Oggi ci occupiamo di Mark Steven Bell, che però poi si farà chiamare più avanti Marky Ramone e diventerà per 20 anni il batterista dei Ramones. È uno molto particolare perché è uno dei padri del punk rock, è uno che ha visto nel punk non solo un elemento di rabbia e distruzione, però uno sfogo in positivo. È uno che, è vero, oggi ha ancora le braccia tatuate e vive in canottiere e giubbotto di pelle, ma non è solo quello. Mark Steven Bell nasce a New York assieme a suo fratello gemello Fred il 15 luglio del 52. Famiglia molto unita, il nonno che lavora in un ristorante, il padre che lavora al porto come scaricatore, la madre segretaria. Lui è un bambino iperattivo, ai tempi si diceva invece un ragazzino da raddrizzare, con un talento naturale per mettersi nei guai. È un pessimo studente, è preso di mira dagli insegnanti, lo racconta lui stesso nel suo libro Punk Rock Blitzkrieg, la mia vita nei Ramones, edito da Edizioni Tsunami. Alla SP17 erano molto rigidi. Al mattino dovevamo metterci in fila in cortile e marciare verso la scuola, classe per classe, come un esercito. Ai maschi veniva richiesto l'uso della cravatta. Per le ragazze era d'obbligo la gonna con scarpe eleganti e alla fine sembravano versioni in miniatura delle loro madri. I banchi erano fatti di vecchio legno scuro che sembrava essere lì dal giorno in cui avevano costruito la scuola, forse anche prima. Una volta seduti, a lezione, dovevamo restare in silenzio a meno che non fossimo interrogati. Se qualcuno parlava o causava delle interruzioni, veniva punito. Il che voleva dire stare in piedi nell'angolo a fissare il muro. Ho memorizzato ogni particolare di quell'angolo, la piccola crepa, il pezzettino di intonaco mancante. Eh sì, deve averlo visto molto a lungo quel muro, il nostro protagonista. D'altra parte, in quei casi o ti integri o diventi un ribelle, perché lì con i ragazzi difficili, insomma, si usano le maniere forti. E lui in realtà si annoia in classe, ma ha delle passioni, soprattutto la letteratura, e poi gli piace la fantascienza, e ha una compagna inseparabile, una radiolina, la radiolina con la quale lui ascolta la musica. Il 22 novembre 63 però non c'è musica da trasmettere, perché arriva la notizia che sconvolge l'America e che cambia la storia di un paese. Apprendiamo in questo momento che il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, è morto in seguito alle ferite riportate nell'attentato subito a Dallas. La notizia della morte di Kennedy è uno shock, è una rivoluzione in tutte le famiglie americane, compresa quella del nostro Mark. I dreamed I was the president of these United States. Ma quelli sono anni particolari, perché tra le varie rivoluzioni c'è quella più importante per noi e per lui, perché nel 1964 nella vita di Mark Steven Bell irrompono i Beatles. È il momento in cui i Beatles sbarcano in America, vanno all'Ed Sullivan Show e tutti gli americani guardano questi quattro ragazzi, e lui rimane affascinato da tutti, ma soprattutto da Ringo Starr. Ladies and gentlemen, the Beatles! La sera di domenica 9 febbraio 1964, mia madre chiamò me e Fred in soggiorno per vedere i Beatles ospiti dell'Ed Sullivan Show. Si parlava di loro da almeno una settimana. Quando apparvero sullo schermo, c'era una sorta di elettricità nell'aria, difficile da descrivere. Il paese era conquistato. Io stesso ne ero conquistato. La mattina successiva mi pettinai come loro, coi capelli sulla fronte. John, Paul e George erano grandi, ma io volevo essere Ringo. Volevo stare seduto dietro la batteria e tirare legnate e dare alla musica quella potenza e quel ritmo. Sapevo che era qualcosa che potevo fare. Eh sì, i Beatles furono un detonatore per tutta quella generazione. Lui non ha ancora 12 anni, ma ha già capito che lui nella vita farà il batterista. Adesso bisogna avvicinarsi a questo strumento, farsene comprare uno. Per il mio 12° compleanno i miei genitori mi regalarono il primo rullante. Era una roba giapponese da 4 soldi, ma era decisamente meglio del tavolo e delle posate. Li convinsi a mandarmi a lezione in un posto chiamato Bromley's Music, vicino a casa. Non era proprio una scuola di musica, quanto una batteria montata nello scantinato di qualcuno. L'insegnante mi mostrò come tenere le bacchette all'uso militare e mi fece vedere alcune tecniche di base con flamme e paradiddle. Dopo circa 3 mesi smisi di andarci perché non pensavo potesse insegnarmi più nulla. Quello di cui avevo bisogno era una batteria tutta mia. Il falco e il gabbiano. 1964, Mark Steven Bell, non ancora Marky Ramone, ha finalmente la sua batteria. E per lui iniziano anni intensi, perché come tutti i ragazzini comincia a formare band, debutta sulle scene con una band che si chiama Uncle, con dei ragazzini come lui che amano gli Who, i Rolling Stones e i Beatles naturalmente, e poi lui scopre i Cream di Eric Clapton e poi si innamora di un altro grande batterista, Mitch Mitchell, il batterista di Jimi Hendrix, adotta quel look che da lì in poi lo accompagnerà sempre, capelli lunghi, più lunghi della media degli altri Ramones e dei punk di quel periodo, e i capelli lunghi, le giacche di pelle e ovviamente i jeans. Ho le foto in cantina e perfino in cucina della rock and roll star. Siamo nel 1969, in un club del West Village Mark incontra i suoi idoli. Sono Jimi Hendrix, Buddy Miles, Jim Morrison, e dopo una prima band entra in un'altra che si chiama i Dust, un trio hard rock, e poi firma finalmente il suo primo contratto discografico. L'etichetta si chiama Kama Sutra. I Dust fanno 2 album e arrivano a un minimo di successo, riescono a aprire i concerti di Alice Cooper, quindi insomma cominciamo ad arrivare verso la serie A, concerti in tutta la zona di New York, poi Detroit, insomma ci si comincia a spostare. Ovviamente per lui sono anni epici che lui ricorda così. So obviously we were influenced by... Eravamo ovviamente influenzati da Hendrix, dai Cream, dai Deep Purple, dai Led Zeppelin e da altri grandi gruppi. E rispetto a loro avevamo 10 anni di differenza quando abbiamo messo in piedi i Dust. Eravamo dei ragazzini di 17, 18, 19 anni e registrammo 2 album. Molto tempo dopo abbiamo combattuto per i diritti di quei lavori, ottenendoli dalla Sony. Ma le case discografiche non amano insistere troppo su qualcuno, i Dust non sfondano, però Marco ormai è fuori di casa e quindi inizia un periodo di lavori saltuari, di fame, di alloggi di fortuna, di problemi con i denti, senza i soldi per un dentista, fino a che non entra negli Estus, che è un gruppo di country che sta cercando un batterista, e inizia a suonare con loro. Anche se lui non ama il country, ci sono ben altri gruppi con i quali lui vorrebbe suonare. Per esempio a New York arrivano i New York Dolls, che saranno i padri del punk, con Jerry Nolan, Jerry Thunders. Lui ha già una idea ben precisa di quello che vorrebbe fare, e poi arriva un club, c'è un postaccio di New York che si chiama Max Kansas City, è una specie di locale piccolo di bar vicino a Union Square, e lì passano tutti, perché in realtà il punk non è stato solo un movimento, ma è stato alcuni luoghi, il CBGB e il Max Kansas City in America, nei quali hanno cominciato a trovarsi dei musicisti che non erano solo punk, perché c'era Patti Smith, ma c'erano anche i Blondie, arrivava Springsteen, arrivava Bowie dall'Inghilterra, insomma ci si ritrovava attorno a una nuova idea di musica. Wow. We needed a place to play. New York was very downtrodden at the time. Avevamo bisogno di un posto per suonare, e a quel tempo a New York c'era il Max's Kansas City. Però la sua popolarità già stava declinando. Lì trovai Johnny, caro compagno che ci ha purtroppo lasciato. E poi c'erano Jerry Nolan dei New York Dolls, Dee, Debbie Harry e persone di questo genere. Poi tutti noi abbiamo iniziato ad andare al CBGB's. Avevamo bisogno di una sede per suonare. fu Richard Hell a scoprirlo. E lì Mark incontra Didi, Joey e Tommy Ramone. Però non è ancora il momento per lui di entrare nei Ramone. Entra invece in una band particolare, Wayne County and the Backstreet Boys. Il leader del gruppo è Wayne County. Tanto vi dico che oggi si chiama Jane County ed è una donna. È un provocatore, forse la parte più oltranzista del punk, anche perché diciamo la sua omosessualità diventa sberlefo, diventa modo per aggredire il pubblico. Insomma, uno dei brani con i quali Wayne County debutta era una canzone che si chiama You Make Me Cream in My Jeans, e dopo, se qualcuno sa l'inglese, se la tradurrà lui. I ragazzi che gremivano la sala quella sera erano glam rocker del New Jersey che indossavano pantaloni attillati e un po' di trucco. Non erano pronti per Wayne County, ma erano entusiasti di vederlo salire sul palco. Lui faceva sul serio. Appena attaccammo Toilet Love, si ammassarono verso di lui per poter dare un'occhiata da vicino a quella persona dal sesso indefinito, ricoperto di preservativi. Ballarono, sventolarono le braccia e sbattevano la testa senza mai distogliere lo sguardo da Wayne. I proprietari, però, non erano molto contenti. La quarta canzone che suonammo fu la goccia che fece traboccare il vaso. Un grosso buttafuori andò dal nostro manager e gli disse qualcosa che gli fece spalancare occhi e narici. E insomma, va a finire male. D'altra parte Wayne County era veramente estremo, poi infatti andrà a Londra e, come dicevo prima, diventerà donna. Però quelli sono anni così, sono anni di risse, di sputi, di lattine, di vita ai margini, e poi sono anni anche di alcol e di pillole. Il falco e il gabbiano. Abbiamo lasciato il nostro protagonista di oggi, che è Mark Steven Bell, ancora non Marky Ramone, nel 1976. Lui è il batterista di Wayne County and the Backstreet Boys, che poi diventeranno Electric Chairs. Lì è il momento dell'alcol, delle risse, delle anfetamine, delle prime droghe, e sarà Johnny Thunders poi, come dire, il promotore dell'eroina nel punk. Nel frattempo lui conosce una ragazza che si chiama Cynthia Whitney, la chiamano Roxy, è la futura fidanzata di Johnny Ramone. È una ricca che ama bere, i due si chiudono in casa, bevono fino a svenire. Insomma, è l'inizio di quello che per Mark diventerà un vero e proprio problema di dipendenza. Però l'incontro con questa Roxy è fondamentale, perché è proprio lei a presentare a Mark un certo Richard Hell. Richard Hell è uno dei grandi guru del punk americano di quel periodo, perché è particolare, insomma, è un po' più raffinato, disperato degli altri. È quello che scrisse Blank Generation, e quindi scrisse un manifesto del popolo punk. È uno dei personaggi più interessanti della scena musicale newyorkese di quegli anni. Roxy mi presentò Richard una sera in cui eravamo da lei durante un party indiavolato. Lui cercava un batterista per la sua nuova band, così mi invitò alla sala prove. Era un tipo interessante, portava i capelli sparati per aria e i suoi pantaloni e le sue magliette erano vecchie e cadevano a pezzi ed erano tenuti assieme da una manciata di spille da paglia. Richard Hell è un bassista, ma è anche uno scrittore, un attore statunitense, è uno che dorme nella vasca da bagno ed è soprattutto tossico, perché è dipendente da eroina. Forma molti gruppi proto-punk, all'inizio fece anche parte di Television, ma soprattutto fonda Richard Hell and the Voidoids. Lancia, diciamo così, il look punk fatto di catene, magliette strappate, capelli in aria, ma non è una questione estetica, lui è davvero uno delle figure più importanti del punk rock. Registra Mark con Richard Hell e The Voidoids proprio l'album fondamentale di questa band e uno degli album principali di tutto il punk americano. L'album è appunto Blank Generation. Dopo l'album, Richard Hell e i Voidoids vanno in Gran Bretagna a supporter dei Clash. Ci sono episodi mitici, un concerto di Manchester finito a botte con rissa generale, arrivo della polizia. Poi tornano a Londra e hanno la consapevolezza di avere, come dire, sfiorato la vetta. Però nel frattempo ci sono contrasti, non solo per questione di soldi, ma proprio per questione di gestione di se stessi da parte di quei punk di quel periodo. Così nel 78, mentre tutta la parte di Richard Dell si va sfaldando, arriva una chiamata, perché Johnny Ramone chiede a Mark di entrare nel gruppo. Quando lui si presenta all'incontro, Johnny Ramone enuncia, come dire, delle idee guida della band. I Ramones non si sballavano prima di suonare, neanche io. L'abbigliamento su e giù dal palco era composto da giacche di pelle, jeans e sneaker. Ero già vestito così e lo ero sempre stato. È Eddie a dare il via a tutte le canzoni. Certo, lo sapevo. Non andiamo mai in tour per più di un mese alla volta. Viaggiamo tutti insieme e le fidanzate sono benvenute. Poi ci fu l'audizione nella sala prove dei Ramones. Consisteva in I Don't Care, una delle canzoni rock and roll più pure scritte dopo il 1962. Il messaggio, devi fregartene di questo mondo e di quella donna, veniva servito in due strofe che si ripetevano in continuazione, come in un mantra punk. Tutto il pezzo durava 1 minuto e 40 secondi. Nei primi 10 secondi diventammo una band. Sì, i Ramones erano nati nel 74 con una formazione, quella originale, diciamo, quella della maglietta, Joey, Didi, Johnny e Tommy, insomma, avevano preso tutti lo stesso cognome per evidenziare la loro grande unità, ma malgrado questa unità, nel 1978 Tommy Ramone non riesce a reggere il ritmo sfiancante dei concerti. Poi comunque è anche vero che, malgrado le enunciazioni, le leggi sui Ramones, molti poi si sballavano, non certo Tommy, che se ne va e viene chiamato Mark Steven Bell. Da questo momento lui sarà Marky Ramone. Ecco come lui ricorda come andavano le cose nel gruppo al momento del suo arrivo. Era una band dove non c'era qualcuno più importante di un altro. Didi e Joey principalmente scrivevano le canzoni. Johnny era il più normale, mentre io e Didi eravamo i più festaioli. Volevamo che tutti fossero amici nel gruppo. Poi c'era Tommy, che non piaceva molto. Lo prendevano sempre in giro. Io gli volevo bene. Tommy se n'è andato per questo, perché lo prendevano per il culo e non era disposto ad andare avanti così. Il rapporto con i Ramones è un rapporto totalizzante, perché ci sono concerti che si susseguono, tour, lunghissimi viaggi nel famoso pulmino dove ognuno siede sempre allo stesso posto. E poi i Ramones sono gente strana. C'è un aneddoto famoso del manager dei Ramones che si ferma con la band in una, diciamo, in un autogrill americano, mangiano qualcosa e poi uno si avvicina al manager dei Ramones e gli dice: lei è molto bravo a prendersi cura di ragazzi come loro, cioè li aveva scambiati per dei ragazzi con dei problemi super seri. Didi, per esempio, non sopporta lo sporco, ha ossessione per le armi del periodo nazista, e viceversa Joey non si lava mai, poi soffre di nevrosi, di disturbi compulsivi. Johnny si è disintossicato, ma poi riprende a drogarsi, picchia la fidanzata. Insomma, la famiglia è una famiglia, ma è molto strana. E nel frattempo però i Ramones diventano una icona del punk. Hanno talmente successo che girano il film Rock and Roll High School, che ruota attorno alla band e a una loro fan, la fan numero uno, Riff Randall. E dopo il film, ancora concerti, album, il tour in Giappone. Però Marky ha un problema che ormai è molto grave, è alcolista. Arriva a nascondere le bottiglie nei bagni della sala prove, nei cestini, nei camerini, beve prima delle esibizioni, e in qualche modo la regola dei Ramones sarebbe quella che non ci si sballa prima di suonare, ma lui ormai è fuori controllo. Così nell'83 viene cacciato dal gruppo. Marky ormai è totalmente dipendente dall'alcol, perde il lavoro, viene arrestato per guida in stato di ebbrezza, insomma inizia per lui quello che potrebbe essere un declino definitivo, ne parla anche in molte interviste. I was a periodic drink. I didn't drink every day. Bevevo, continuavo a bere ogni giorno. Quando bevi sembra che ci siano pochi problemi. Con me c'era Didi, compagno di bevute e mio migliore amico nella band. È stato davvero un manicomio. It was really a nut house. e quelli sono posti nei quali quando uno beve, beve sul serio, non è che si ubriachicchia, e arrivano le allucinazioni, arrivano persone, animali che non esistono, si convince di vedere in giardino un grosso dinosauro di 10 metri, insomma deve cominciare a tentare di disintossicarsi, i primi tentativi falliscono e alla fine la donna che sta con lui da molto tempo, Marion, lo caccia di casa, tutto sta crollando, lui capisce che la musica è l'unica cosa che può salvarlo, si fa ricoverare in una clinica a Staten Island. Era peggio delle versioni cinematografiche dei manicomi, dice Marchi di quel posto. Marchi sta scendendo tutti i gradini, comincia a fare lavori saltuari, consegne in bicicletta, apprendista da un fabbro, operaio edile. Poi i Ramones, per sua fortuna, lo richiamano, hanno ancora bisogno della sua velocità di mano, diciamo, insomma non è facile fare il batterista dei Ramones. Così si riuniscono, fanno nuovi tour, nuovi album, lui rimane sobrio e prova a aiutare anche Didi, che è, oltre che essere tossicodipendente, è diventato anche bulimico. Il ritorno sulle scene per lui è importante, gli salva la vita. E forse è importante anche sapere che uno dei più grandi fan dei Ramones è un certo Stephen King, lo scrittore di fantascienza che Marchi aveva sempre amato. Stephen King ci aveva invitati nella sua casa di Bangor nel Maine. La casa era una classica struttura vittoriana con un aspetto leggermente spettrale. King aveva gli occhi penetranti di chi aveva letto e scritto molti libri. Era molto disponibile e aveva passato a Didi una copia del suo ultimo libro, Pet Cemetery, la storia di un cimitero dove cani, gatti e umani resuscitavano. Dopo un'ora, Didi aveva scarabocchiato delle parole su un pezzo di carta. Aveva scritto una canzone intitolata Pet Cemetery. Il video è un successo. Nel frattempo, però, Didi non ce la fa, lascia definitivamente il gruppo. Sono gli anni 90, arriva un altro terremoto nella scena mondiale americana, sono i Nirvana e i Ramones hanno sempre uno zoccolo duro di fan e i loro tour negli Stati Uniti e in tutto il mondo sono comunque dei veri e propri eventi. Insomma, i Ramones resistono anche ai Nirvana e al grunge, per esempio come in un concerto in Sud America del 93. Don't cry for me, Argentina. La fiesta empezó. Take the CJ. What do you think that? Poi nel 95 arriva l'album che si chiama Dios Amigos, è l'album dello scioglimento. Nel 96 i Ramones cominciano delle carriere soliste, anche se poco dopo praticamente muoiono tutti. Marchi è l'unico infatti che è ancora in vita, continua a fare concerti in giro per il mondo, ha una sua azienda di alimentari a Brooklyn, è impegnato in progetti di beneficenza. Nel marzo del 2002 Marchi, unico rappresentante sopravvissuto dei Ramones, entra nel Rock and Roll Hall of Fame. Lo stesso anno la rivista Spin Magazine definisce i Ramones la seconda più grande band rock and roll della storia dopo i Beatles. Insomma, non c'è niente di meglio da fare che morire se vuoi essere riconosciuto da tutti. Ci sono persone nella loro vita che hanno saputo dare un colpo d'ala, che hanno fatto cose che hanno lasciato un segno, magari anche combattendo le loro tormentatissime battaglie personali, come nel caso di Marky Ramone, che ha costeggiato la storia del punk con Wayne County, con Richard Dale e poi con i Ramones, però ha dovuto anche sudarsi, come dire, la sua integrità fisica e morale. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco il gabbiano chiocciola radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it e poi ci sono i miei Facebook, Twitter, i nostri social, insomma se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.